finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Ottobre 2021. '87.9 la modulazione di frequenza della banda romana laziale. E torniamo a trasmettere da remoto, ma attenzione, non c'è alcun rigurgito, ritorno di pandemia. Non c'è nessun nuovo virus che incombe. Tutt'altro. Semplicemente, come spesso accade, come sta accadendo proprio in questi anni, quando si apre la possibilità di un modo nuovo di operare, non è detto che questo non torni utile anche in occasioni diverse da quelle emergenziali. Insomma, se volete, potrebbe essere una lente, un prisma di lettura di quanto è accaduto, seppur, e che quanto sta accadendo, seppur in forma così leggera, tranquilla. Vabbè, comunque, con un po' di ritardo, ovviamente, che è il motivo per cui non potevamo trasmettere da Vede Calci 56. Quindi vi ricordiamo i dati salienti dell'emittente che state ascoltando, cioè Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana laziale. www.ondarossa.info, il sito della radio dove trovate tutti i podcast, i link per ascoltare le trasmissioni, le corrispondenze, la rassegna stampa, insomma quello che è di importante la radio produce in diretta, poi passa anche sul sito. Sul sito ci trovate anche la maniera per ascoltarci via streaming, andando su Ascolta la diretta, oppure andando su Sostieni potete andare a leggere, a vedere come si fa a tenere in vita questa emittente. Ci stanno tanti metodi, quelli più, diciamo, da distanza della radio. Distanza della radio, li trovate sul link Sostieni, presente sul sito di ondarossa.info. Il numero del conto corrente postale per sostenere la radio col più vecchio dei metodi, oltre quello di portare brevi mano il bil danaro, 61 80 40 01, numero di conto corrente postale da intestare. A Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00 185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56, al primo piano. Non ci siamo, ora c'è il numero di telefono 06 491 6 149 17 50, che però non vi risponderemo. Abbiamo ovviamente un altro recapito, ma non ve lo comunichiamo per questioni, così che elegantemente potremmo chiamare di privacy. Quello che vi comunichiamo invece sono le caselle pubbliche di posta elettronica della radio, ondarossa@ondarossa.info. E quella dello spazio. all'inizio della trasmissione che state ascoltando 25 o'clock chiocciola ondarossa.info. 25 scritta al numero 25 o'clock chiocciola ondarossa.info. Potrebbe essere che a un certo punto, insomma, le cose non funzioneranno proprio perfettamente, perché ci siamo accorti nel ripreparare qui la console remota di Radio Onda Rossa che c'è un qualcosa che ancora non va. Proveremo a farlo in diretta. Se facciamo guai, perdonateci, ma rimetteremo subito le cose a posto. E quindi iniziamo. Dicevamo, iniziamo la puntata carichissima di questa sera, notte 20-21 ottobre 2021, che giochetto coi numeri. I vecchi Clash, no, di Give 'Em Enough Rope, il lavoro del 1978. Safe European Home. E ci servivano i Clash per introdurre questa roba qua. E ci serve anche da ringraziamento per tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della serata di sabato scorso alla SNIA. Innanzitutto tutte e tutte coloro che sono intervenuti alla serata animandola, danzando, lasciandosi trasportare dai suoni che hanno messo in campo Plutonium Baby e Wendy, all'ultimo momento Freddie Williams, che sarebbe dovuta essere la sorpresa sul palco della SNIA, non se l'è sentita. E credo che sarebbe stata, forse essendo poi, vabbè, insomma, ve lo diciamo dopo. Per ora ricominciamo, questo è Climate of Fear, adattissimo titolo per il periodo che stiamo vivendo, quindi Freddie Williams and Plutonium Baby, Climate of Fear da capo. You say I'd never make it. Dicevi che non l'avrei mai fatto. E invece a 60 anni Freddie Williams va a cantare punk in una punk band. 4 cover del primo punk californiano. Questo è Destroy Your Music, Freddie Williams and Plutonium Baby, un piccolo vinile, 45 giri, 4 tracce che abbiamo qua sotto le mani, e chissà che ne riusciremo poi a mandarlo in radio presto. Because of you, I chase myself, but you are away from me, the dark. Because of you, because of you, from you I learn what to say clear, hallucinating the eyes of fear. Because of you, I face the truth. Brand new life, brand new band. You are too, I get the sound. It was so hard to make us die. Try to be out of the crowd. I found our style in our voice. It's not our choice, but it's our job. We don't need to wear a mask. quindi dicevamo, serata di sabato scorso, questa che avete già ascoltato è Because of You di Wendy, che hanno animato la seconda parte della serata. Disco anche questo presentato in radio e edito da Tyre Record, e avevamo anche la Tile sabato scorso. Occasione anche per capare qualche traccia da un altro vinile, questa volta una compilation come non se ne facevano da anni. Compilation messa su da proprio Lorenzo dei Wendy e Simone Lucciola dei eccetera eccetera eccetera, che insomma è un po' il prezzemolo di questa, dell'underground di questa città. Brand new life e dintorni ovviamente. Vinile, dicevamo, che sarebbe oltremodo macchinoso poter mandare in onda da remoto. Non impossibile tecnicamente, ma un pochino dal punto di vista proprio tecnologico della questione, ma un pochino più impegnativo dal punto di vista della trasmissione del messaggio. Per cui ci, come nel caso precedente del lavoro di Freddie Williams e Plutonium Baby, ci riserviamo di poterli farli girare sui piatti della radio. E appunto, da Rock the Sunset Ruins, ancora Plutonium Baby, questa è la loro partecipazione alla compilation Run Run Run. ed è partito male, quindi. I am gonna lose my job. Alex Dissuader, dietro cui si nasconde un altro nome storico, nonché l'altra, un altro quarto dei vecchi, dei vecchi Bloody Riot. Alex Dissuader. E come promesso da capo. Allora, prima che vadano i Marò di Rattenkönig, ci troviamo a dare ancora due note su Alex Dissuader. Alex Dissuader è un progetto alla cui voce c'è appunto Alex alla chitarra e alla voce, e Vargilla Gorilla al basso, Frank Presciutti al drums e Daniela Black Whedon dei Plutonium Baby al backing vocals. Quindi da capo, altro vinile, e al centro di ascolto death metal di Roma Sud, diciamo proprio, tocca fare questa puntata a vinili. Rattenkönig, Marò. We'll be right back. E questa era Living in the City del 1977, un demo dei primissimi Discharge, o come dicono loro, Living in a City. E ritorniamo invece a Rock the Sunshine Ruins. Questa, se non sbaglio, non abbiamo adesso, abbiamo anzi poggiato adesso il vinile. Dovrebbe essere l'ultima traccia, ma ci potremmo sbagliare per quanto riguarda la compilazione, l'ultima traccia del lato B. Vado fuori, Ferox, anche qui. Ritorniamo a dei suoni, delle sonorità che ci ricordano tanto gli anni 80. Quindi, Rock the Sunset Ruins, Ferox, vado fuori. Se il tempo passa,

un corto chitone dei Sandali. Alcuni elementi bronzei ad adornare il busto. Un musico forse di età antiche, arcaiche. E poi ancora presentazioni dopo Velester, per cui non ve ne andate, perché a fine mese ci sarà Logos, sempre all'ex SNIA, la festa della parola, che quest'anno ha come parola senza parole, e questo è un gioco di parole. Ci saranno 4 gruppi nelle 3 serate. Siamo riusciti a reperire le tracce di 2 di essi, e quindi Velester innanzitutto, che a un certo punto si è trovato a vagare per le montagne della Duchessa, proprio nella stagione in cui i cervi vanno in amore e il bramito dei cervi diventa il suono dominante per quelle vallate. Sicché, ispirato da questi suoni, Velester si è cimentato a produrre queste 2 tracce, una che ha discreditato egli stesso, ma che comunque noi andremo a trasmettere ugualmente. Si tratta di Cervo, e Cervo nella nebbia, anzi di nebbia, di nebbia. Una produzione reietta dallo stesso autore. We'll be right back.

questa è Morning Goon, Black Amada. Black Amada, formazione post-core romana. Venerdì 29 di ottobre, nell'ambito di Logos, la festa della parola. E questo, solamente queste note potrebbero bastare a convincerci, a convincere tutti voi, a convincere noi stessi ad abbandonare il luogo remoto per accorrere nuovamente in quel della metropoli d'acciaio. È ancora meglio all'ex SNIA per andare a sentire queste note che per tanti anni ci hanno accompagnato, questo modo di suonare durante le puntate, durante le notti di 25 O'Clock. Black Amada con i Crura, di cui però non siamo riusciti a reperire delle tracce disponibili. Ma il tenore dei suoni sarà più o meno quello. Quindi 29 ottobre alla SNIA. E poi avremo modo di ascoltare un'altra cosa di Black Amada. Altra band di grande interesse che viene comunque dalle fucine, crediamo, ci sembra di capire. Che sono quelle di Valerio Fisk. E ce li andiamo ad ascoltare in un live. Una band giovanissima, giovanissima per non proprio per età, ma per composizione, per formazione. Si chiamano Fug, non sappiamo come pronunciarlo, si tratta di slang. F-U-U-G. E questa è la loro live in Rome del 2021, proprio una registrazione live in un parco, esattamente al Pollaio. Fug, Radio Onda Rossa, 25 O'Clock, e Fug che suoneranno. Suoneranno il 31 di ottobre, sempre nell'ambito di Logos, festa della parola. Ancora non abbiamo il programma, non è stato ancora pubblicato, ma la radio ne darà conto nei giorni a venire, nella prossima settimana che ci separa appunto da Logos. Fug, eccoli. E allora, Dust, per quanto riguarda Black Armada, formazione romana di postcore che suonerà il 29 di ottobre all'Exnia nell'ambito di Logos insieme ai Crura. Il 30 invece Object One, sempre a Logos. E poi il 31 Halloween, che fino a un po' d'anni fa qua da queste parti di Halloween non ce ne fregava proprio nulla. Dicevamo il 31 Fug. E quindi dopo Black Armada, Roma chiama, Milano risponde, questi sono Hollowbone e questa è Sequoia, 25 o'clock, Radio Onda Rossa. infine andiamo a Tortona. Questo è Psycircle, un circolo psichedelico, un loop infinito. Per quanto riguarda UFO Mammoth, e quindi con questo andiamo a concludere. Vi ringraziamo per averci ascoltato, per essere venute tutti e tutte alla storia di sabato scorso in quel dell'ex SNIA. Ma la radio continua il suo tour di finanziamento, diciamo così, e perciò il 6 di novembre, sabato 6 novembre, ci sta Marci allo Strike. Che è un'altra di quegli appuntamenti fissi. Scroscia tutto da queste parti. E la radio curerà la cucina. Lo splendido collettivo interno di cucinieri di Radio Onda Rossa, con le cene vegane della radio. E a finanziamento della radio stessa. Accorrete quindi. Raccontiamo perciò quello che seguirà dopo la conclusione delle trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa, e vi rammento che sono la una perfetta punta, tonda tonda, quindi vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, si riprende domani con le sue repliche e con le sue selezioni musicali, si riprende alle 8 di domattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. E aspettiamo sempre la parte riguardante il menzognero. Della cittadina, la parte più succulenta e gustosa, fatta di degrado e di traffico bloccato per le manifestazioni. Poi redazionali della mattina, poi alle 14 tutta scena cinebra, alle 16 Attica Blues oltre alla Black Music, alle 17 la schiena del Soul ormai fusa con il Mezzetes del giovedì, la tabula rasa è la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa alle 20:15. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari. Decreti amministrativi che riducono la mobilità delle persone. Mercoledì prossimo invece proprio buchiamo totalmente, non riusciremo ad esserci. Dicevamo tante cose che bollono in pentola nelle prossime puntate di 25 O'Clock. Qualcuna ve l'abbiamo già accennata. Con questo noi vi diciamo che dai, innanzitutto, e che vi lasciamo sotto la luna comunista. Dai. Yeah. our dreams, I'll share our dreams under a communist.